La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 3 ottobre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E questa settimana parleremo di computer super veloci, computer a bassissime temperature e computer che producono delle particelle piccolissime chiamate eccitioni. E ne parleremo con Gabriele Grosso, studente presso l'Università di Padova, primo autore di un paper uscito qualche giorno fa su Nature Photonics, realizzato insieme al Butov Group del Dipartimento di Fisica dell'Università di California a San Diego. Buongiorno Gabriele. Buongiorno. Gabriele, abbiamo già citato la parola chiave della puntata, eccitioni. Effettivamente che cosa sono gli eccitioni? Hai 100 parole per descriverlo. Allora, gli eccitioni possono essere descritti come delle pseudoparticelle. Sostanzialmente sono una coppia legata di elettroni e buchi che, diciamo, parlando in termini non molto tecnici, sono i portatori di carica all'interno dei materiali semiconduttori. E questi eccitioni hanno delle proprietà interessanti, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di dispositivi optoelettronici che possono essere utilizzati anche in campo elettronico per utilizzi industriali, per realizzare dispositivi computer più veloci e che consumano meno energia. Perfetto Gabriele, in 100 parole è già messa molta carne al fuoco. Adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e cominciamo la trasmissione. Well, I'm picking up the rise at Ellen, I left at the church. I'm picking up the rise, picking up the rise, picking up the rise at Ellen, I left at the church. Well, I'm a diamond, all the sunset, Father Mackenzie left in the night. Well, I'm a diamond, all the sunset, Father Mackenzie left in the night. Well, I'm a diamond, all the sunset. Perfetto Gabriele, siamo ritornati in studio e quindi cominciamo con la trasmissione e quindi cominciamo a esplorare questa scoperta. Tu sei il primo autore di questo paper uscito qualche giorno fa su Nature Photonics, però nel fuori onda mi dicevi che tu collabori con questo gruppo, quindi col Butov Group, ma che non sei laureato, giusto? No, in realtà ho collaborato con questo gruppo perché ho svolto lì il mio lavoro di tesi per il quinto anno di laurea in fisica e ho avuto una sorta di borsa di studio, una cosa di Erasmus che però si fa con l'Università della California, e ho avuto la possibilità di lavorare in questo gruppo e sono venuti fuori dei buoni risultati. Ora Gabriele, senza andare a analizzare se questo sarebbe mai stato possibile in Italia, andiamo a analizzare un attimo il paper. Vado ad analizzare subito il titolo. Nel titolo ci sono due parole chiave, o almeno due termini chiave: i 100 gradi Kelvin e gli eccitioni. Ora, perché i 100 gradi Kelvin e perché gli eccitioni escono solo a 100 gradi Kelvin? Allora, gli eccitioni sono eccitioni perché sono sostanzialmente degli stati eccitati degli elettroni nei semiconduttori. Forse magari dovremmo spiegarlo. Nei semiconduttori gli elettroni possono essere in due fasi, mettiamola così. Una è la fase di valenza, in cui gli elettroni sono in qualche modo legati ai nuclei dei cristalli, e poi con un'opportuna somministrazione di energia possono, diciamo, saltare in una banda di conduzione e diventare portatori di carica per l'energia elettrica. Diciamo che normalmente gli elettroni orbitano attorno al nucleo, attorno a un'orbita stabile, e poi quando gli si fornisce energia questi elettroni zompettano nell'altro livello di energia e quindi percorrono un'altra orbita. Sì, esatto, si slegano sostanzialmente dal nucleo e possono essere trasportati e controllati con un'opportuna differenza di potenziale. Benissimo, scusa l'interruzione. E niente, questi eccitioni sono interessanti perché la somministrazione di energia che gli dai per renderli disponibili alla conduzione viene somministrata soprattutto tramite luce, ovvero fotoni. E poi quando l'eccitone si ricombina, ovvero quando l'elettrone ritorna nella sua posizione originale, l'energia che riemette è riemessa tramite sempre fotoni. Questi li rende utili per lo sviluppo di tecnologie che utilizzano la luce come, diciamo, come mezzo per trasportare informazioni. E il fatto che lavorino, insomma, che vengono emessi a 100 gradi Kelvin è praticamente la scoperta principale di cui viene parlato in questo paper. Infatti queste tecnologie erano già ben conosciute, soltanto il problema era la loro scarsa praticità. Infatti potevano essere utilizzate solamente a temperature estreme, ovvero quella dell'elio liquido dell'1,4-1,5 Kelvin, che in termini industriali è inapplicabile. Quello che si è fatto per questa ricerca è stato di cercare di migliorare questa proprietà e usando materiali leggermente diversi in modo da portare la temperatura a livelli più accessibili. Il risultato a cui siamo arrivati è quello, appunto, quello che dice il titolo, attorno ai 100 gradi Kelvin. Ma perché effettivamente sono usciti gli eccitioni a 100 gradi Kelvin ancora non l'avete capito, o meglio, è la prima volta che si parla di eccitioni all'interno della storia della fisica, oppure questa è un'ulteriore conferma dell'esistenza di queste particelle e non sapete perché sono uscite effettivamente a questa temperatura? No, gli eccitioni fino a quando sono stati gli studi sui semiconduttori penso siano stati conosciuti, diciamo, verso gli anni 60-70 con i pionieri della fisica dello stato solido. La loro applicazione invece a campi elettronici, optoelettronici, è recente. Infatti, come penso tutti hanno notato, le varie tecnologie si stanno più spostando verso trasmissione di segnali con la luce. Basti pensare, che ne so, alle fibre ottiche per la trasmissione di segnali internet, perché la luce effettivamente ha questa capacità di viaggiare molto più velocemente e anche di una minore dissipazione di energia a differenza di quella della corrente elettrica. Dunque sono aumentati gli studi in questo settore. Il problema però rimane il fatto che per poter utilizzare la luce come viene utilizzata la corrente bisogna processarla, ovvero bisogna essere capaci di manipolare il segnale in modo da poter compiere delle operazioni logiche. E questo è qua entrano in gioco gli eccitioni, perché hanno questa capacità, sia possono relazionarsi con la luce e in più possono essere anche controllati come vengono controllati gli elettroni. Stai cercando di dirmi fondamentalmente che gli eccitioni trasportano l'informazione a una velocità maggiore rispetto ai device tradizionali, quindi che c'è un vantaggio fra i device optoelettronici e i device che utilizziamo ancora oggi? In realtà gli eccitioni viaggiano più o meno alla stessa velocità degli elettroni. Il loro vantaggio è quello di non aver bisogno di interconnessioni tra il segnale luminoso, tra il fotone e quello degli elettroni, perché comunque dispositivi ottici sono già stati fatti, nel senso è stato possibile anche processare direttamente la luce. Il vantaggio di queste particelle, ovvero gli eccitioni, è il fatto che loro assorbono luce e direttamente possono essere processati e poi la riassorbono automaticamente, perciò si saltano questi due passaggi che comunque portano un certo ritardo nella trasmissione di segnali. Questo è sostanzialmente il loro vantaggio. In più, a differenza di altri dispositivi completamente ottici, possono essere scalabili e resi piccoli anche per questa, diciamo, mania recente di rendere tutto molto più piccolo, molto più compatto, per fare dei dispositivi e degli apparecchi elettrici molto più piccoli e maneggevoli. Senti Gabriele, due domande. Allora, la prima: quando parli di dispositivi optoelettronici, di che cosa stai parlando? E poi la seconda: qual è effettivamente il tempo di vita degli eccitioni, cioè quanto vivono queste particelle? Allora, dispositivi optoelettronici sono dispositivi che possono operare, diciamo, possono assorbire segnale ed emettere segnale sia in termini di fotoni, ovvero luce, sia in termini di elettroni, ovvero la corrente elettrica di tutti i giorni. Il tempo di vita media degli eccitioni è uno dei problemi fondamentali per cui questa ricerca è ancora a questi livelli, diciamo, abbastanza basilari. Perché generalmente il tempo di vita medio degli eccitioni, ovvero quanto l'elettrone rimane eccitato prima di ricombinarsi e buttare fuori il fotone, è relativamente breve, generalmente intorno ai nanosecondi, e perciò non permette a queste particelle di poter essere manipolate. Mentre invece con delle tecniche speciali, ovvero delle strutture quantistiche all'interno dei semiconduttori, quelle che vengono generalmente chiamate buche di potenziale, è possibile alterare la loro energia in modo da rendere loro il tempo di vita medio maggiore e dunque poter essere manipolati a piacimento. Allora Gabriele, l'interesse per questa scoperta è palesemente molto alto, e quindi sono andato a sfogliare la seconda pagina di questa ricerca, di questo paper pubblicato qualche giorno fa. Nella seconda pagina ci sono alcune curve a campana che mi ricordano molto le gaussiane, che vanno più o meno dai meno 40 micrometri ai più 40 micrometri. Che cosa rappresentano queste curve nel lavoro che avete svolto? Allora, il fatto che vadano da meno 40 a più 40 micrometri è praticamente la dimensione del device, ovvero la dimensione del dispositivo che noi abbiamo utilizzato per fare questa ricerca. E la loro struttura campana è sostanzialmente l'intensità luminosa emessa dagli eccitioni. Come ho detto prima, gli eccitioni hanno questa capacità di ricombinarsi e emettere segnale luminoso, e che è quello che poi noi siamo andati a fotografare. E la loro struttura campana dipende dal fatto che gli eccitioni sono stati da noi confinati in opportune, anche qua, diciamo, buche di potenziale, e perciò la loro emissione era confinata agli elettrodi in cui noi li tenevamo. Perfetto Gabriele, ci fermiamo un attimo, andiamo a ascoltare un po' di musica e poi ritorniamo in studio. There are things you'll not admit to hear. Perfetto, cari radioascoltatori, siamo ritornati di nuovo in studio per continuare questa lunga, interessante e direi anche complessa chiacchierata con Gabriele Grosso a proposito degli ecitioni usciti all'interno di processori optoelettronici a temperature molto basse, si parla addirittura di 100 gradi Kelvin. Ora, noi qui abbiamo un paper di poche pagine. La domanda che invece voglio fare a Gabriele è proprio questa: come avete operato per rilevare questi ecitioni e soprattutto come avete operato per tenere dei processori optoelettronici a temperature così basse? Sì, diciamo che questo gruppo, quello dove ho lavorato io, del professor Butoff a San Diego, è da parecchio tempo che studia gli ecitioni e perciò hanno una tecnologia abbastanza consolidata per fare questo tipo di lavoro. Si usano sostanzialmente dei criostati, delle sorte di macchine con dove si viene messo dentro dell'elio liquido che raffredda molto, intorno ai 1,4 Kelvin, e poi ci sono delle finestrelle in cui è possibile appunto illuminare il campione, il nostro semiconduttore o il dispositivo con dei laser e poi con delle altre apparecchiature prendere la fotografia dell'emissione. E gli ecitioni sono stati studiati da questo gruppo in lungo e largo anche per diciamo fini diversi da quelli pratici come dispositivi, perché permettono anche lo studio di leggi di pura fisica come ne so, la condensazione di Bose-Einstein e altre cose molto interessanti. Gabriele, tu hai appena citato il Butoff Group, che è poi il gruppo che ti ha accolto, che ha aperto le braccia per accoglierti e farti fare il tuo lavoro di tesi. Prima di tutto ti voglio chiedere una cosa: perché hai scelto di fare una tesi in California e com'è andata la tua esperienza in questo gruppo? Beh, è nato tutto quando ho trovato il bando per questa borsa di studio e poi mi è stata la possibilità di andare là. E a dir la verità avevo già letto qualcosa su di loro, perché sempre su questi argomenti, su questi dispositivi optoelettronici, era uscito un paper loro su Science, penso nel 2008, io non mi ricordo come ne sono venuto a conoscenza, e visto che mi è data la possibilità di andare a San Diego ho deciso di fare richiesta a loro. Il professore molto gentilmente mi ha accettato e mi ha dato la possibilità di lavorare con loro. È stata, diciamo, una buona esperienza, sì. Diciamo che i lavori di ottica sono dall'esterno non molto divertenti, perché tutto sommato devi spendere il tuo tempo in una stanza buia portando degli occhiali di protezione colorati e lavorare praticamente tutta la giornata al buio, e quando sei in California dove ci sono le spiagge puoi andare a fare surf, giocare tutte le ore di luce al buio non è molto affascinante, però tutto sommato quello che fai, se ti interessa, ti permette di passare anche 14 ore in una stanza buia. Quindi il tuo lavoro effettivamente era fatto in due fasi. La prima era quella di tenere questi device optoelettronici a bassissime temperature, quindi a 100 gradi Kelvin, e la seconda invece è quella di fare come un fotografo impazzito in una marea di foto per cercare di rilevare questi ecitioni in uscita. Sì, sostanzialmente sì, bisognava raffreddare tutto il macchinario con l'elio liquido e aspettare che andasse a temperatura, e poi illuminare col laser. E per quanto riguarda i dispositivi, poi bisognava fare anche tutto uno studio, una serie di ipotesi su dove illuminare, su come individuare il segnale, perché comunque si tratta questione di micrometri. Se tu ricerchi il segnale troppo lontano da dove illumini col laser, il segnale diventa molto scarso. Se vai troppo vicino il segnale diventa troppo luminoso e troppo sporco, perciò si tratta anche una questione molto di sensibilità. E questo richiede parecchio tempo, sì. Gabriele, a questo punto la domanda più scomoda, la domanda che un ricercatore non vorrebbe mai sentirsi fare: che applicazioni pratiche ha questa scoperta nella vita di tutti i giorni? Ma diciamo che l'applicazione ultima di questo tipo di ricerca potrebbe essere quella di rimpiazzare, non completamente ma almeno parzialmente, la tecnologia che noi usiamo oggi, ovvero quella corrente ed elettroni. però c'è molto molto lavoro ancora da fare, perché tutto sommato noi siamo arrivati a 100 gradi di Kelvin, ma noi viviamo a ben altre temperature, perciò non è pensabile di tenere il tuo computer portatile a quelle temperature mentre lo utilizzi. Però diciamo che il fine ultimo sarebbe quello di poter utilizzare questi dispositivi molto più veloci, che consumano anche meno energia nella vita di tutti i giorni. Gabriele, a questo punto mi viene una domanda da farti. In quest'ultimo periodo si stanno sviluppando molto delle ricerche riferenti a un altro campo dell'informatica, che è la cosiddetta informatica quantistica. Nell'informatica quantistica ci sono delle piccole particelle quantizzate, i cosiddetti qubit, che contengono l'informazione, che scambiano l'informazione a tempo praticamente nullo e che quindi accelererebbero la velocità dei computer attuali. Che vantaggi ha questo tipo di ricerca confrontata con quella dell'informatica quantistica? C'è una qualche relazione? Ma l'informatica quantistica ha il grande vantaggio di essere molto molto veloce. Questa tecnologia potrebbe essere, diciamo, un tassello di passaggio, nel senso che, visto che molto spesso noi utilizziamo la luce come scambio di informazioni, poterla processare direttamente, poter fare dello scambio, diciamo, poter analizzare dei dati direttamente, porterebbe anche questo a un vantaggio in termini di velocità di processione. Questo potrebbe essere il vantaggio. Poi tutto sommato sono, diciamo, campi paralleli che, come in tutte le cose penso in scienza, qualcuno la spunta e altri no. Allora Gabriele, l'ultima domanda: questi eccitioni, quindi queste particelle rilevate dal vostro gruppo, che picco di intensità hanno, quindi che energia massima hanno? Dette in parole più semplici, quanta informazione possono scambiare? Picco di intensità dipende, diciamo, da quanti ne crei, perché illuminando con il laser tu crei tantissimi eccitioni, perché devi pensare che per ogni elettrone che tu ecciti crei un eccitione, e in semiconduttori ce ne sono parecchi di elettroni. Quello che noi abbiamo visto, non abbiamo fatto una risoluzione temporale, abbiamo fatto una risoluzione solamente spaziale, e perciò avevamo delle intensità a volte anche molto elevate. Adesso in termini, diciamo, quantitativi non saprei darti una stima, anche perché non era interessante per la nostra risposta. Quello che noi valutavamo è, come in tutti i dispositivi elettrici, la risposta tra dispositivo acceso e dispositivo spento, ovvero on off, e misuravamo sostanzialmente il rapporto tra l'intensità quando il dispositivo era spento, ovvero nello stato off, e quando invece era acceso nello stato on, che poi è il parametro con cui tutt'oggi i transistori o altri dispositivi elettronici vengono valutati, ovvero il rapporto tra l'intensità off e quella on. Gabriele, ti faccio un grosso in bocca al lupo per la tua futura e spero brillante carriera da fisico e da scienziato. Te lo facciamo tutti noi di Radio Città Fujiko. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fujiko. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone. E vi lascio con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie Gabriele. Arrivederci, grazie a voi.